nuovo pupita, ancora una volta facendo come te, senza degna gente lotta. Franna cominciando, anche genere senza discussione. Già ti ho spiegato che è soltanto una passione. Ma convinca niente, perché sto acceso nessuno. Per un momento hai zagato e non può pensare si tricchiuna. Parla assai, zero fatta, minacce non fa niente. Cacci e palle, sì uomo, andiamo tanto di una forma. Lunga forma e vita, una passione che mi riesce a indi. Scrive grazie a voi, sti commenti una spinta. Odia lettere in più, quindi non te lamentare. Sento pitta di sto brutello mio. Fate buono, state qua. Dice che si porta l'altro fuoco, ma mo piacere. Dice che se un rapper te definisce dopo fiera. Si parla nato pochi frate, mi te taglia una capo. A pare non fo di pace, si mene credibile ro papa. A te fo di pace, frate. Carta straccia, frate, che tu minaccia me ne butta, frate, viene a casa sputa in faccia. Sono aggressivo un coppo pit, pallontana sta merda. Uso troppo usciata, battiti inutili, usciata casa perdere. E per Napoleon spero che capite, non rompite. Meglio compagni per mezza vostra, se ne sono sparita. Prima gomma mi vesteva, mi differenziava. Poi che un guazzo cognu era, che mi assomigliava. S'ha pigliato compagni amore e fuma, se ne aiuto e t'attigiato. Oh frate, ma che ti credessi, ne stai tutta imbustata. Ma ne è sta città, guappa tutta parte. Guappa i cartoni che si sciuscia in faccia, se ne fui in un'altra parte. Commenta in coppa commenta, insulta coppa insulta. Ma parlo pure un coppa a chiesta, frate, a cala cresta. Pensate che non ce la faccio, so come nu che parte. A sfidi sberiard, ce la posso fa, succa parvia. Ma buffatemi in terra, me ne fotte lo traguardo, scanse mina. Ma goda vista, lo cammina. Frate, non fu di pace, frate, si carta straccia. Frate, ca tu minaccia, me ne fotte, frate, viene a casa sputa in faccia.